TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno e ancora buona domenica da Giorgio Bearzini in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia del 25 gennaio, in cui parleremo dell'arrivo a Pordenone della fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026, della camera ardente allestita a Gemona per il feretro di Alessandro Venier, l'uomo ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna, di cui domani si celebreranno i funerali, del bilancio dell'ultima edizione del Trieste Film Festival, chiusosi ieri, e per lo sport il commento alla sofferta ma preziosa vittoria della Pallacanestro Trieste contro Sassari, che mantiene i giuliani in zona playoff. Prosegue dunque il percorso in regione della fiamma olimpica dei giochi invernali Milano Cortina 2026. Ieri il passaggio a Gorizia e a Udine con l'accensione del braciere, oggi la fiaccola è arrivata a Pordenone al parcheggio Marcolin, 28 i tedofori lungo i 5,7 km di percorso. Domani previsto il passaggio sul Vajont. La fiamma olimpica accende il cielo carico di pioggia sopra Pordenone e lungo il suo tragitto raccoglie intorno a sé persone di tutte le età. Partita da via Udine, la torcia portata da 28 tedofori percorre 5 km e 700 metri attraversando le vie San Giuliano, Delle Grazie, Pola, Rivierasca, Viale Dante, Viale Marconi, Via 30 Aprile, Via Oberdan, Via Mazzini, Corso Vittorio Emanuele fino alla loggia municipale. È tanta l'emozione, i brividi, poi è una cosa che è veramente unica e quindi bisogna godersela fino in fondo. È bello anche proseguire il tragitto dopo averla portata e niente, un bel momento da ricordare. È davvero un'emozione unica, un'esperienza che ti capita una volta nella vita alla quale non si poteva rinunciare. È inspiegabile davvero. Tedofora d'eccezione Giada Rossi, con la medaglia d'oro olimpica al collo conquistata a Parigi 2024. Emozioni che si completano per la pongista paralimpica. Adesso posso dirlo di averlo provato tutto e devo dire che quando l'ho sempre vista la fiaccola, diciamo accenderla, quando si accendono i giochi paralimpici e la chiusura, poi quando torni anche con le medaglie è bello. Portarla adesso a casa proprio, nella propria città, è stato veramente tanto emozionante e bello. Quindi un'esperienza da aggiungere al curriculum che rimarrà custodita gelosamente e sarà sempre un bellissimo ricordo. In via Codafora si conclude la sfilata della fiamma olimpica, la sua 49esima tappa di un viaggio che riparte domani da Vajont a Longarone. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel giorno del decimo anniversario del rapimento del ricercatore di Fiumicello Giulio Regeni al Cairo in Egitto, Fiumicello torna a essere il cuore di una mobilitazione civile che non si è mai interrotta per la giornata, dal titolo Giulio continua a fare cose, che riunirà la famiglia Regeni con la loro legale Alessandra Ballerini e il popolo giallo, insieme a ospiti di rilievo nazionale tra cui Elisa, Don Luigi Ciotti, Alessandro Bergonzoni, Piff, Gerardo Colombo ed Elie Schlein. Il programma si aprirà alle 14.45 alla pista di patinaggio di Fiumicello con il flash mob 10 anni in giallo, un'onda d'urto, seguito dall'incontro parole, immagini e musica per Giulio. Alle 17 è prevista la proiezione in anteprima nazionale del documentario Giulio Regeni, tutto il male del mondo, con il regista Simone Manetti e l'autore Emanuele Cava. Alle 19 partirà da via Carnera la camminata dei diritti verso il piazzale dei Tigli, dove alle 19.41, l'orario in cui nel 2016 si persero le tracce di Giulio, si terrà il minuto di raccoglimento e la fiaccolata si silenziosa. L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube Giulio Siamo Noi. E a 6 mesi dal 25 luglio, quando il 35enne Alessandro Venier venne ucciso e fatto a pezzi dalla madre Lorena e dalla compagna Meilin Castro Monsalvo nella sua casa di Gemona, domani saranno celebrate le sue esequie nel cimitero gemonese. Il corpo non sarà cremato perché, non essendosi conclusa ancora l'indagine sull'omicidio, potrebbero essere necessari supplementi di inchiesta che richiedano la riesumazione. Oggi il feretro dell'uomo è esposto nella camera ardente allestita dal comune nella sala di commiato della casa funeraria a Gemona. Dalle 8 del mattino non gli rivieni mesto di amici e conoscenti venuti a dare l'ultimo saluto ad Alessandro Venier alla casa funeraria Giuliano di Gemona. Dietro la bara sul muro ho proiettati foto e filmati della vita di Alessandro, ucciso esattamente 6 mesi fa nella villetta di Via Delotti, a pochi chilometri dalla camera ardente. riposa in pace, ricordo il tuo sorriso ironico e simpatico, scrive qualcuno sulla nota firme. Era un ragazzo alla fine semplice, di valore speciale, al di là di tutto era particolare come persona, ma non meritava quanto gli è successo, ci dice una sua amica Jessica. Era il 25 luglio quando, come ha ricostruito la madre Lorena, in carcere, così come lo è la compagna Maylin, indagata per l'omicidio del 35enne, intorno alle 17.30 di quel 25 luglio veniva sciolto del sonnifero Zolpidem in una limonata e gli veniva fatta bere. Poi le fasi dell'uccisione, per ora l'unica versione è quella della mamma, reconfessa. Intorno alle 21.30 Alessandro era già morto. Secondo l'autopsia, per un'azione meccanica asfissiante, verosimilmente con un cuscino, in un organismo già gravemente compromesso dall'azione del farmaco usato di solito per il trattamento dell'insonnia e ritrovato in concentrazioni compatibili con esiti letali. È in questa stessa casa funeraria che fu portato, subito dopo il ritrovamento da parte dei carabinieri, il bidone metallico contenente i suoi resti, immersi nella calce viva. Le indagini sono in fase di chiusura, ma non sono ancora ultimate. Mancano ancora le conclusioni di Resti Parma e l'integrazione tossicologica all'esame medico legale che saranno richieste dai difensori di Maylin, Tosel e De Carlo per indagare più approfonditamente il ruolo svolto dall'insulina. La mamma Lorena, che ha fatto recapitare oggi un messaggio, aveva parlato di due punture di insulina con causa del decesso di Alessandro. Maylin parlerà a un giudice quando verrà il momento, hanno dichiarato nei giorni scorsi i suoi legali. Nei prossimi giorni verrà trasferita Maylin di sezione in carcere alla Giudecca. Domani alle 10 la sepoltura nel cimitero di Gemona. Si è incaricato di tutto il comune. Gemona del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca ai carabinieri del nucleo operativo radiomobili della compagnia di Tolmezzo, guidati dal luogotenente Stefano Bortolussi, hanno denunciato in stato di libertà un giovane del luogo, presunto responsabile dell'aggressione a scopo di rapina ai danni di un 61enne del posto. Quest'ultimo stava percorrendo a piedi una via centrale di Tolmezzo quando è stato aggredito da un giovane che, dopo averlo percosso con calci e pugni, gli sottraeva il portafogli contenente la somma di 400 euro. Le indagini attivate dai carabinieri hanno permesso, anche grazie alla collaborazione con il personale della polizia locale del comune, di giungere all'identificazione dell'aggressore, già noto alle forze dell'ordine, che è stato quindi deferito alla magistratura ordinaria. A Maiano alle 17 sarà deposto un omaggio floreale al cippo in memoria delle vittime del terremoto del 76 alla presenza del presidente nazionale dell'ANA, Sebastiano Favero. Alle 18 nella Casa della Gioventù di Buia seguirà un concerto della fanfara della Brigata Alpina Iulia. Si chiusa ieri la 37esima edizione del Trieste Film Festival, la cerimonia di premiazione al Politeama Rossetti ha visto la consegna del riconoscimento Stella dell'Est alla regista ungherese Ildikó Enyedi, di cui è stato presentato il film Silent Friend, l'amico silenzioso, già premiato a Venezia, in cui si raccontano tre storie tra loro collegate da un albero di ginkgo biloba. Positivo il bilancio della manifestazione. Una storia di scoperta di sé, amore, desiderio e l'incontro con una donna transgender. È Fantasy, il film della regista slovena Kukla, che ha vinto il premio Trieste per il miglior lungometraggio, riconoscimento assegnato nella cerimonia di chiusura del Trieste Film Festival, arrivato alla sua edizione numero 37. Il film è stato girato anche nel capoluogo giuliano, nel quartiere di Rozzol Melara. Per il festival quest'anno oltre 120 film, con centinaia di ospiti da 36 paesi. Ogni anno aumentano i titoli che i nostri spettatori possono vedere qui per primi, hanno dichiarato Monica Goti, presidente dell'associazione organizzatrice Alpe Adria Cinema, e Nicoletta Romeo, direttrice artistica del Trieste Film Festival. Nel corso della serata di chiusura un riconoscimento è dato anche alla cineasta ungherese Ildikó Enyedi, ospite del festival. Per lei il premio Eastern Star, per chi crea un ponte tra Europa dell'Est e dell'Ovest. Tra gli altri, menzione speciale per la miglior regia a Vytautas Katkus per il film The Visitor. Miglior documentario invece è stato scelto Welded Together, produzione franco-belga diretta da Anastasika Mirosnichenko. Menzione speciale per Active Vocabulary di Yulia Lokshina, film saggio ritratto di una Russia come stato totalitario persistente. E ancora premiato anche il moldavo Electing Miss Santa di Raisa Resmerita, perché interpreta la realtà contemporanea e il dialogo tra culture, mentre il premio Corso Salani è andato a Nella colonia penale di Gaetano Crivaro. Categoria corti vince The Spectacle di Balint Kenier. Menzione speciale a The Road Home di Marian Farciut per la sua odissea attraverso la Transilvania rurale in direzione donna, che è il premio assegnato dal centro antiviolenza GOAP di Trieste, è andato invece a White Lies di Alba Zari. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo al tempo, il cielo da nuvoloso coperto sulla regione, queste le temperature, a Trieste 10 gradi, a Gorizia e Udine 8 gradi e 5 decimi, a Pordenone 7 gradi, a Tolmezzo e Piancavallo 1 grado, a Foni di Sopra, Tarvisio e Sappada 0 gradi, sul Monte Lussari meno 2 gradi e 5 decimi, meno 2 gradi sul Monte Zoncolan, sulla costa a Grado 9 gradi, a Lignano 8. E queste le previsioni, nelle prossime ore cielo in prevalenza coperto su pianura e costa, piogge in genere abbondanti, in montagna, precipitazioni abbondanti su Alpi Giulie, intense altrove, quota neve fino a circa 600 metri sulle Alpi, 800 sulle Prealpi. Nel pomeriggio sera in quota soffierà vento moderato da sud su Alpi e Prealpi Giulie. E siamo allo sport, basket, in Serie A Trieste si è imposta ieri sera al Pallarubini su Sassari per 76-70 e rimane in zona playoff. Oggi tocca all'APU Udine, impegnata a Brescia, in A2 Cividale sul parquet di Verona. La Pallacanestro Trieste vince senza brillare contro una Dinamo Sassari falcidiata dagli infortuni. Arriva un successo sporco, 76-70, che tiene i biancorossi in piena zona playoff, sesto posto provvisorio. Seconda vittoria di fila dopo quella contro Cantù in campionato. L'inizio è complicato, Sassari parte meglio e colpisce con le seconde linee, mentre Trieste fatica a trovare ritmo. Nel secondo quarto arriva il momento peggiore della partita per Trieste, solo 6 punti segnati, 2 allo scadere. I biancorossi si intestardiscono dall'arco e sbagliano tutto, 0 su 10, senza che nemmeno il rientro di Ross riesca a cambiare l'inerzia. All'intervallo Sassari è avanti, 29-26. Il terzo quarto non alza il livello del gioco. Trieste continua a tirare da fuori senza precisione e resta a galla grazie ai canestri di Ramsey. La svolta arriva nell'ultimo periodo, quando Sassari cala fisicamente e Trieste accelera. Il parziale decisivo nasce dall'arco, con Utov, Ramsey e Toscano Anderson protagonisti. 15 punti, quasi tutti in serie. Nel finale l'attacco dei biancorossi si blocca di nuovo, ma Sassari non ne approfitta, sbagliando almeno 4 tiri aperti. Finisce 76-70 con Ramsey, miglior marcatore, con 24 punti a referto. Ora testa all'Europa, mercoledì Basketball Champions League, ancora alle Canarie, questa volta a Tenerife. Per quanto riguarda Udine, la squadra di Vertemati è attesa in serata dalla Germani Brescia, una delle due prime della classe. Palla 2 alle 19. Andrea Marusci, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Per la pallavolo in Serie A2 maschile, impegno in trasferta per il Prata Pordenone sul parquet di Siena con inizio alle 17. Per gli spettacoli, il concerto in memoria di Benjamin Britten, compositore britannico scomparso 50 anni fa, l'appuntamento inaugurale della stagione 2026 della stagione cameristica di Trieste, promosso dall'associazione Chamber Music. A esibirsi l'orchestra d'archi di Santa Cecilia, diretta dal violoncellista Luigi Piovano e accompagnata dal pianoforte solista dell'artista olandese Gile Bae. Appuntamento alle 20.30 al Teatro Miela. Ricordiamo ancora l'appuntamento d'eccezione di questa sera alla Contrada di Trieste per il ritorno in città di Alessandro Bergonzoni con il nuovo spettacolo alle 20.30 e i 5 straordinari acrobati che a ritmo di twist e rock porteranno nel cuore il ritmo e l'energia della loro terra, il Kenya, i Black Blues Brothers a Trieste nell'unica data in Friuli Venezia Giulia alle 18 al Politeama Rossetti. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Giorgio Bearz con la collaborazione tecnica di Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Grazie dell'attenzione. Prossimo GR alle 18.30. Buon proseguimento di domenica. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.